Radio 24 Reportage. Robot d'Europa, istruzioni per l'uso, di Gigi Donelli. Un pulsante per fermare robot ribelli o impazziti. Regole chiare su chi deve pagare i danni procurati da un'intelligenza artificiale fuori controllo. Creazione di sistemi di compensazione per chi perde il lavoro a causa della robotica. Imposizioni di codici per evitare che le persone vulnerabili sviluppino relazioni emozionali con i loro robot badanti. Non è fantascienza, ma un futuro che, se non è proprio adesso, lo è quasi. Per questo il Parlamento europeo ha lanciato il primo codice etico per una legislazione ad hoc su robot e androidi. A curare il dossier è la deputata lussemburghese Madi Delvaux, del gruppo Socialisti e Democratici. Abbiamo bisogno di un quadro giuridico solido per garantire che i robot siano e continuino ad essere al servizio del genere umano, spiega la deputata, favorendo al tempo stesso lo sviluppo delle tecnologie. Il tutto in un settore che promette di portare un trilione di euro all'economia dell'Unione, ma che genera o rischia di generare parecchi grattacapi. Non è così, onorevole Delvaux? Nous constatons que les robots sont déjà très nombreux parmi nous. Siamo tutti consapevoli del fatto che i robot sono già tra noi, sono numerosi. Se vediamo quello che accade nei laboratori e anche nell'industria, non possiamo non essere certi del fatto che negli anni a venire saranno sempre più presenti nelle nostre vite. A differenza di quanto accade con i robot industriali, la nuova generazione sarà basata sull'interazione con gli esseri umani. Saranno robot capaci di apprendere e poi di prendere decisioni in maniera autonoma. Penso ovviamente alle auto senza guidatore e ai droni, che peraltro sono già tra noi. Le auto sono in fase di test. E poi ci sono i robot sanitari e chirurgici, quelli che affiancano i portatori di handicap, e i robot impegnati nell'attività agricola. È per questo che noi oggi riteniamo di dover avviare un cantiere legislativo che ci deve permettere di affrontare tutto questo, sia adattando la legislazione corrente, sia, quando serve, introducendo delle regole nuove. Soit la legislation existante, soit proposer de nouvelles règles. Ci sta dicendo che abbiamo bisogno di strumenti nuovi per affrontare l'ignoto? Sì, in un certo senso è proprio così. D'altra parte è un settore ancora largamente sconosciuto. E per questo le dico che il rapporto che abbiamo sottoposto alle istituzioni europee è volutamente molto ampio, di portata generale, e contiene numerose riflessioni, sulle quali adesso attendiamo il parere della Commissione. Credo che proseguendo su questa strada potremo proporre delle regole generali, o se preferisce, dei grandi principi di riferimento, cui poi il legislatore nazionale si potrà ispirare per produrre la necessaria regolamentazione del fenomeno a livello nazionale. Onorevole Delvaux, ci faccia un esempio. Dove sente che esiste un vuoto normativo particolarmente preoccupante? Il primo tema che dobbiamo affrontare è senza alcun dubbio quello della responsabilità. L'esempio più immediato è quello dell'auto senza conducente. Chi deve rispondere dei danni alle persone o alle cose procurati da un'auto senza conducente? Sarà il costruttore o piuttosto il programmatore? E poi c'è naturalmente la questione delicatissima della standardizzazione in chiave di sicurezza, perché la gente teme la possibilità che un attacco informatico possa produrre delle conseguenze drammatiche o addirittura spaventose. Ovviamente c'è poi un tema più strettamente etico: scegliere tra più alternative. È un aspetto che riguarda in primo luogo i programmatori, ma che va condiviso con le persone normali, con i non specialisti, che hanno diritto di conoscere ciò che un robot può oppure non può fare e tutte le implicazioni connesse a questo tipo di problematica. E poi dobbiamo chiederci se le nostre leggi in materia di protezione dei dati siano adatte al futuro che andiamo ad affrontare, poiché sappiamo che un robot progettato per l'autoapprendimento ha bisogno di raccogliere una grande massa di dati che vanno dunque gestiti e custoditi. E poi, onorevole Delvaux, c'è il grande tema del lavoro. Il suo collega, l'eurodeputato verde svedese Max Andersson, ha ricordato e citato uno studio che fissa al 10% l'occupazione già soppiantata dalla robotica nel suo paese e prevede da qui a 20 anni la perdita del 50% dei posti di lavoro affidati agli esseri umani. Il rapporto propone una sorta di tassa sul lavoro dei robot, con cui pagare le pensioni, la creazione di un reddito di cittadinanza, tutto questo per compensare l'impoverimento della popolazione. Dans le rapport, nous avons évidemment aussi traité la question de l'emploi. Nel rapporto ovviamente abbiamo affrontato il tema del lavoro. È una delle grandi paure e in assoluto è comunque un interrogativo che oggi genera risposte diametralmente opposte. I robot distruggeranno il lavoro come lo conosciamo? C'è chi pensa che lo faranno. E chi invece crede che questa trasformazione sarà in grado di produrre una grandissima quantità di mestieri sostitutivi che compenseranno i posti di lavoro persi. È necessario riflettere su questi interrogativi, ragionare sui compiti che i robot dovranno svolgere. Su questo aspetto abbiamo sollecitato un grande dibattito, invitando gli esperti anche a ipotizzare un worst case scenario, in cui davvero i posti di lavoro persi sono ampiamente superiori a quelli creati. Ragionando su questa ipotesi, abbiamo considerato l'opportunità di introdurre un reddito collettivo di disoccupazione, una sorta di reddito universale, che possa permettere ai cittadini europei di vivere una vita decente nonostante la perdita del lavoro, poiché in definitiva è questo il compito della politica. Effettivamente questo ultimo punto non è stato approvato dalla plenaria del Parlamento europeo, poiché si tratta di un aspetto che viene associato all'esigenza di imporre una tassa sui robot, una tassa che alimenti il fondo di disoccupazione, e questa è un'idea che spaventa chi pensa che possa rappresentare un freno allo sviluppo delle tecnologie. C'è chi ha detto che vogliamo frenare l'innovazione o addirittura uccidere l'innovazione ancora prima che questa nuova generazione di robot arrivi sul mercato. Ma insomma, il dibattito non finisce di certo qui. Signora Del Vol, il Parlamento europeo ha dunque preso posizione in materia di robot seguendo le linee di separazione tradizionali degli schieramenti politici? On a constaté très clairement ici au Parlement qu'il y avait la droite et les libéraux qui étaient opposés. Effettivamente è andata così. La destra e i liberali erano contro, mentre la sinistra era a favore di questa ipotesi di reddito collettivo di disoccupazione. E sia ben chiaro che abbiamo sollevato la questione in maniera molto prudente. Non abbiamo detto vogliamo domani il reddito universale. Abbiamo voluto sollevare un dibattito intorno a questa ipotesi e avviare degli studi sulle implicazioni delle nostre scelte in questa materia. Il nostro rapporto non solo non vuole frenare, ma al contrario vuole incoraggiare la competitività dell'Europa nell'ambito dell'industria della robotica. È un settore in cui l'Europa è molto forte e noi non intendiamo certo perdere questo vantaggio competitivo. Ma è chiaro che la politica si deve occupare delle persone, del lavoro, della sicurezza sociale, del benessere complessivo, del finanziamento del nostro sistema sociale. E certo che sì, in questi termini quello sulla robotica di nuova generazione è un tema squisitamente politico. Come dit, assurer un revenu décent aux gens. E donc là, je pense que c'est un clivage politique, oui. Onorevole Del Vol, in conclusione, il vostro rapporto ha generato molti titoli e dunque la mia ultima domanda. Ma davvero volete dare dei diritti alle macchine? No, nous ne voulons pas donner des droits aux robots. Parce que les robots, nous disons clairement, un robot est une machine. C'est une machine. Non è affatto questo il punto. I robot sono macchine e noi non intendiamo in alcun modo dare dei diritti alle macchine, ma sono macchine intelligenti. Ed è chiaro che le prossime generazioni di robot intelligenti saranno ancora più autonome nel loro rapporto con gli esseri umani e dunque capaci di compiere lavori e azioni che oggi non sono ancora pensabili. Per questo il nodo che dobbiamo affrontare è quello della responsabilità. I robot che verranno dovranno avere un referente umano, ma che sia chi lo vende, chi lo assembla, chi lo programma, oppure tutte queste figure collettivamente, è tutto da definire. D'altra parte, il fatto di avere macchine capaci di autoapprendimento, che imparano dall'ambiente circostante, complica ulteriormente il quadro complessivo. Noi vogliamo essere certi che di fronte ad una macchina che produce un danno, ci sia sempre un'assunzione di responsabilità. e per questo dobbiamo sviluppare adesso il quadro normativo e considerare la responsabilità limitata che applichiamo già oggi alle società. Una società a responsabilità limitata, un robot a responsabilità elettronica limitata, sapendo che alle sue spalle c'è sempre un essere umano che deve rispondere anche sul piano finanziario. Essayer di trovare il finanziamento. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.